portato sposi verso la felicità, gloriosi soldatini verso il bacio di mamma. Ma il povero trenino segnato al suo destino e cede alla corriera il suo cammin. Il trenino Pereto la fiazzone e il trenino che il nonno inaugurò fa un inchin, saluta la stazione. E poi va, non ha più le belle bandierine rosse e blu intorno al suo maior, ma va su scalando le colline. Che trenin, ma nei suoi vagoni nemmeno un viaggiatore ai leva troppo piano, or viaggiano in pullman pien di commozione. Il vecchio controllore biglietti grida, i me di biglietti non ce n'è. Il trenin Pereto la fiazzone è un trenin di tanto tempo fa, va pianin ma un giorno alla stazione verrà. Nemmeno un viaggiatore ai leva troppo piano, or viaggiano in pullman pien di commozione. Il vecchio controllore biglietti grida, i medi biglietti non ce n'è. Il trenin Pereto la piazzone è un trenin di tanto tempo fa, va pianin ma un giorno alla stazione giungerà.